Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alma Mileto, una delle curatrici della rassegna cinematografica con incontri Il cinema dei movimenti online il 9-10 dicembre 2020. Alma, ben trovata. Buonasera, buonasera Federico, ben trovato. Ci racconti di questa iniziativa? Come dicevi, è un'iniziativa che si svolgerà quest'anno purtroppo a distanza. È la quarta edizione di un progetto che va avanti appunto da 4 anni, sulle forme e i progetti di un cinema politico. La prima edizione è stata nel 2017 per il centenario della rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione russa. Poi c'è stata un'edizione dedicata al 68, quindi il movimento studentesco, e una terza invece al 69-70. Quest'anno abbiamo deciso di andare più sul contemporaneo, se così vogliamo, dedicando un'iniziativa al cinema e ai movimenti a partire però dai primi anni 2000, dunque diciamo dal G8, dalla battaglia di Seattle come diciamo data indicativa, fino ad arrivare a quelli delle nuovissime generazioni, ad esempio quell'ecologista dei Fridays for Future. Quindi il filo rosso di queste 4 iniziative è il rapporto appunto tra cinema e politica, quindi possiamo anche dire forse tra politica e immagine e quindi anche protesi tecnica attraverso cui rappresentare il movimento politico. Tant'è che in quest'ultima iniziativa molto importante è che molti movimenti si sono autorappresentati, quindi in molti di questi film e documentari che mostriamo si vede come ci sia un utilizzo diciamo della tecnica da parte degli stessi esponenti e protagonisti dei movimenti, quindi spazio politico e spazio diciamo dell'immagine, spazio tecnico sono fortemente connessi. E questo in realtà già dal cinema russo, da non so, capostipiti del genere come Eisenstein e Vierkov era molto presente, no? Perché se pensiamo ai movimenti dei Kinoki di Vierkov nelle piazze, sono stati i primi a mettere delle cineprese nelle piazze e filmare la realtà. Ecco, questo è un po' il nostro, se vogliamo, credo, ecco, cioè l'assioma su cui tutta l'iniziativa si basa, e la formazione di una prima rete anche quasi, che è quella di Vertov, che è la rete mediale di oggi, che però negli anni, e quindi diciamo attraversando gli anni 60, arrivando fino ai giorni nostri, ha acquisito sempre maggior forza. Quanti sono i titoli proposti? I titoli erano anche di più e purtroppo abbiamo dovuto diciamo restringere un po' l'iniziativa appunto perché per la prima volta verrà a distanza. Noi negli anni scorsi abbiamo sempre fatto proiezioni dal vivo alla Casa del Cinema, quest'anno appunto utilizzeremo invece le piattaforme virtuali e anche per questioni di diritti abbiamo dovuto un po' restringere il campo e anche proiettare la maggior parte dei film di produzione italiana perché era più facile avere i diritti delle proiezioni. Però diciamo abbiamo comunque una decina di film tra diciamo film di finzione e documentari, e molto importante è che essendo questa un'iniziativa che nasce dall'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, ovviamente innanzitutto molto esplora anche il territorio romano e comunque c'è un grande fondamento nell'archivio e quindi molti dei materiali anche che noi abbiamo esplorato in questi anni e lo faremo anche quest'anno sono proprio custoditi da questo archivio. Penso ad esempio in questo caso al documentario dedicato al movimento del femminismo che appunto viene dall'AMOD, questo film di Paola Columba che è dedicato appunto al movimento del femminismo, ma penso in realtà anche ad alcuni materiali molto nuovi come ad esempio quelli dell'associazione Scomodo, associazione importante a livello ormai nazionale, che è in contatto proprio in questi ultimi mesi con l'archivio perché alcuni dei materiali video dedicati a questa associazione movimento siano appunto custoditi dall'AMOD, quindi l'AMOD continua diciamo ancora oggi con le nuove generazioni, noi movimenti a custodire, ad archiviare diciamo tutti i materiali video che riguardano appunto i suddetti movimenti. Come è organizzata questa 2 giorni? È pensata con una rassegna di proiezioni online per l'appunto, ma a seguire o in realtà ad introduzione a seconda di ciascuna proiezione è previsto un incontro di 20 minuti, mezz'ora, un dialogo, potremmo dire una conversazione, uno studioso, e parliamo soprattutto degli studiosi che fanno parte di questo comitato organizzativo dell'evento, e un potremmo dire operatore del settore che spesso è il regista stesso del film. Quindi diciamo ci saranno questi luoghi di dibattito e di analisi anche dell'oggetto che si andrà poi a vedere o che si è appena visto, che serviranno a connettere anche questo oggetto con appunto la panoramica diciamo dell'iniziativa nel suo complesso e anche appunto nell'illuminazione diciamo dei tratti pertinenti di quest'anno e quindi appunto il rapporto tra cinema e movimenti, cinema e spazio politico. Posso farti qualche nome, ad esempio ci sarà Alice Rohrbacher con il suo ultimo lavoro Media Contadina che è stato presentato anche al Festival di Venezia a settembre, ci sarà Stefano Savona che è un altro importante documentarista italiano che ci presenta un film del 2018 che è La strada dei Camuni, che è però un film davvero anche molto interessante dal punto di vista formale in cui c'è una grande intermedialità anche tra formati, quindi parleremo anche molto di come lo spazio politico, che in questo caso è uno spazio anche storico della striscia di Gaza e degli attacchi e dei bombardamenti sulla comunità dei Samoni, appunto, rispetto al combattimento israelo-palestinese, che però appunto è analizzato anche attraverso forme di animazione, ad esempio, quindi è molto interessante da questo punto di vista come è stato pensato questo spazio del cinema. Poi ancora Diaz, che è diventato Diaz di Daniele Vicari, uno dei simboli forse cinematografici appunto delle giornate del G8, e poi ancora appunto questi materiali video dell'associazione Discomodo, che mostreremo assieme agli esponenti di questo movimento nuovissimo, questa redazione Under 25, la più grande redazione Under 25 d'Italia, perché tutto nasce da una rivista e poi diciamo accompagnata da eventi invece iniziative pubbliche. Il femminismo l'ho già nominato, il movimento antimafia anche molto importante, con un film come Placido Rizzotto incontriamo il suo regista Pasquale Scineca. Insomma, e altri, adesso senza nominarli tutti, però per avere un esempio diciamo degli autori che avremo con noi. Ci lasci tutti i riferimenti web? Le due giornate saranno seguibili molto facilmente in maniera totalmente pubblica e gratuita su due canali, il canale YouTube dell'AMOD, quindi basta diciamo cercare appunto archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico su YouTube e si trova il suo canale, con delle dirette appunto che avverranno il 9 e il 10 dal pomeriggio, più o meno primo pomeriggio verso le 3 fino alla serata, anche seconda serata perché gli ultimi incontri ci saranno verso le 10:30-11 di sera, e poi anche sulla pagina Facebook sempre dell'archivio, appunto basta semplicemente entrare nella pagina e seguire le dirette. Per informazioni, anche per avere il programma diciamo nei suoi dettagli, locandina eccetera, basta andare sul sito www.amod.it e lì sono pubblicati tutti i materiali dell'iniziativa. Il cinema dei movimenti online il 9-10 dicembre 2020, rassegna cinematografica arricchita da incontri. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Alma Mileto. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, credi. Presto, volentieri. Con Maria Luisa Celani, direttrice artistica della sesta edizione dello Slow Film Fest, dal 10 al 15 dicembre 2020 online. Ben trovata! Ciao, ciao Federico, ciao radioascoltatori, eccoci qua. Tra l'altro ero stato alla scorsa edizione, quest'anno sarà ben diversa. Eh sì, quest'anno, come sappiamo tutti, come stiamo vivendo tutte e tutti, la pandemia, il Covid-19 ci ha messo nella strada della rimodulazione delle nostre attività culturali, e quindi anche lo Slow Film Fest sarà quasi completamente online, tranne una passeggiata, perché tu sai all'interno abbiamo proiezioni ma anche la conoscenza del territorio attraverso le passeggiate, tranne una passeggiata che faremo il 13 dicembre a Roma al quartiere Garbatella, e per il resto sarà tutto online, proiezioni e incontri. Quanti sono i lavori, le opere proposte quest'anno? Sono 25, sono documentari come al solito, corto di animazione e corto di fiction. Abbiamo 5 premiere assolute che affrontano il tema dei cambiamenti climatici e dei diritti umani. Raccontiamo anche i presupposti sui quali era nato il festival. Lo Slow Film Fest è nato 6 anni fa, questa è la 6ª edizione, è nato a Tolfa ed ha preso spunto da una realtà di Tolfa. Tolfa fa parte di un circuito che si chiama Città Slow International, che comprende circa 200 comuni in tutto il mondo, sotto i 5.000 abitanti, che firmano insieme una carta dove c'è l'attenzione all'ambiente, dove c'è l'attenzione alle diversità, alla memoria, alla salvaguardia del territorio. Abbiamo preso spunto da questo ed è nato lo Slow Film Fest. Inizialmente era a Tolfa, poi si è trasferito a Roma, Acqua Pendente ed Antrodoco, quindi ha una sua identità sempre itinerante. Quest'anno, come dicevamo all'inizio, insomma, abbiamo dovuto rimodulare il festival online, non è stato semplice, ma non tanto da un punto di vista tecnologico, ma quanto da un punto di vista proprio di resa, di identità, cioè i festival di cinema e qualsiasi attività, no? Live, dove si ha bisogno di contro dei corpi per uno scambio, non è stato facile rimodulare tutto online. Oggi questa identità itinerante noi abbiamo cercato di mantenerla dando comunque degli spazi narrativi, degli spazi di racconto che possano coinvolgere i comuni di Acqua Pendente e d'Antrodoco. Parlavamo fuori onda anche delle prospettive future dei festival e del cinema in occasioni come queste, che però potrebbero anche ripresentarsi. Sì, questa pandemia ci ha messo di fronte in modo forse accelerando dei tempi che già erano nell'aria. Non dico un trasferimento, ma oggi è una sorta di prova zero, perché credo fondamentalmente che questo mix di live e di online per i festival di cinema, in particolare perché organizzo quelli, rimarrà nel tempo. Credo che non torneremo indietro da questo punto di vista, non torneremo solo a organizzare il live delle manifestazioni cinematografiche, ma rimarrà sempre questa doppia connessione, questo doppio binario, che è interessante, e l'importante però è ritornare in sala. Come saranno strutturate le giornate? Sarà una prima parte dal 10 al 13, che è quella legata allo streaming, quindi alle proiezioni gratuite su slowfilmfest.stream, su una piattaforma in collaborazione con OpenDDB, e prevederanno ogni giorno dal 10 al 13, si sono previsti la visione di 5 opere. Parallelamente, sulla, diciamo, la pagina Facebook dello Slow Film Fest, ci saranno 4 dirette di incontri che affronteranno vari temi: una sul cinema socioambientale d'impatto, un'altra sui temi dei territori sostenibili, quindi andiamo a raccontare la Tuscia, un'altra ancora invece affronterà, grazie, collegandoci al documentario Pink, che potrà essere visto domenica 13, ci sarà un panel, un incontro sul tema del cancro al seno. Per chiudere poi il 15 dicembre con un incontro online, Nuove Visioni, il cinema che verrà. Realizzato questo panel in collaborazione con l'Accademia di Cinema e Televisione Griffith. Quindi uno sguardo al cinema che verrà attraverso l'intervento delle nuove generazioni, i nuovi registi e le nuove registe. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Certo, allora, riferimento web è slowfilmfest.stream e la nostra pagina Facebook, sempre dello Slow Film Fest. Volevo solo aggiungere una cosa, che ci tengo a sottolinearla: questo è un festival che negli ultimi 2 anni siamo riuscite a organizzarci in modo tale che è curato, è organizzato da un team di sole professionisti, siamo tutte donne, ci piace sottolinearlo. Quest'anno il protagonismo delle donne, la visione delle donne sarà presente anche in tutti i panel, e quindi questa cosa ci piace proprio sottolinearla. Sesta edizione dello Slow Film Fest online dal 10 al 15 dicembre 2020, un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Maria Luisa Celani, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo, grazie, grazie, un abbraccio a tutte e tutti. Con Marco Castaldi, regista del film Nel bagno delle donne, online da giovedì 3 dicembre 2020. Marco, ben trovato. Ciao, ben trovati a te e ai tuoi ascoltatori. Ci racconti di questo lavoro, come lo presenteresti? Come un piccolo miracolo, perché è un piccolo film per il budget, ma non un piccolo film, secondo me, per il risultato finale, nel senso che è il frutto del lavoro di una meravigliosa troupe, partendo dai produttori, per finire a tutti gli attori, quindi anche il cast. È stato davvero un lavoro di equipe che ha permesso a tutti di dare il proprio meglio, e secondo me il cuore che ciascuno di noi ci ha messo si vede poi nella messa in scena, ecco. Come ha avuto origine? Qual è l'idea di partenza? È un romanzo di Massimo Vitali che si chiama Se son rose. Questo romanzo è edito da Fernandello e tra l'altro vi consiglio di leggerlo, perché è veramente, veramente molto particolare e molto interessante. E Galliano Iuso, il produttore del film, ha comprato i diritti, poi ha affidato la scrittura della sceneggiatura a Alessio Lauria e Marco Alessi, che sono due bravissimi sceneggiatori, e poi dopo varie peripezie il copione è finito a me, e siamo andati al ministero, abbiamo chiesto il fondo, e lo abbiamo preso. Nel frattempo ci ha appoggiato anche Rai Cinema con una coproduzione, e poi da lì diciamo, è partita tutta la trafila della produzione vera e propria. Quindi è frutto della fantasia di Massimo Vitali, in realtà, la storia, ecco. Poi com'è stata la lavorazione a partire dalla scrittura fino alla scelta del cast? La sceneggiatura, sì, di sì. Bravi sceneggiatori che non smetterò mai di ringraziare. Il mio lavoro è cominciato leggendo il copione, cioè ho letto un paio di volte il copione segnandomi delle cose e man mano che lo leggevo lo visualizzavo. Ad esempio la scelta del protagonista è venuta immediatamente. Luca Vecchi, il protagonista del film, che saluto, ha fatto un lavoro meraviglioso, splendido, bravissimo, è davvero emozionante, è mio amico da 15 anni, è una sorta di web star, perché è del trio comico di De Pitt, diciamo, ha fatto la sua fortuna in quel modo, nasce così, e io mi sono subito immaginato Luca nel ruolo del protagonista, e infatti non appena gliel'ho proposto, Luca ha accettato di buon grado e ha detto sì, cavolo, ma sembra che, non volendo, parli anche un po' della mia situazione, quindi il protagonista maschile è il primo che mi è venuto. La seconda scelta di cast, cioè la coprotagonista Daphne Scoccia, l'ho incontrata una sera a un concerto, avevo letto il copione da 2 giorni, mi stavo cervellando su chi potesse essere l'attrice, e la sera del concerto, invece di sentire il concerto, abbiamo parlato tutta la sera del film, gli ho spiegato la storia e si è innamorata, il giorno dopo le ho mandato il copione e di lì a poco ha accettato il ruolo. Invece un pochino più faticosa è stata la ricerca del personaggio della moglie, dell'Egitto, che interpreta il ruolo di Anna, secondo me è il personaggio più importante del film, è una sorta di metronomo, ecco, di tutti gli stati d'animo che il film poi ti porta ad avere. Per il suo personaggio il produttore aveva un'idea, io ne avevo un'altra, abbiamo chiacchierato e discusso un po' su chi dovesse essere, però alla fine ha avuto la meglio stella perché è davvero brava, ha fatto un lavoro splendido e ci ha convinto entrambi. Ma parlando di cast, il film ha 38 ruoli. Quindi in lettura immaginarseli tutti di volta in volta è stato davvero un lavoro divertente, è stata la parte un po' più creativa del lavoro. C'è Francesca Reggiani, c'è Nino Frattica, c'è Francesco Apolloni, c'è Niccolò Segni, c'è Paolo Trestino. Ciascuno porta un piccolo pezzo di sé, diciamo, nel film, e secondo me questo è davvero una ricchezza di questo progetto. Dall'ambientazione al lavoro con attori e attrici, com'è andata? Vuol dire che prima delle riprese abbiamo fatto vari reading in cui ci sistemavamo le battute, abbiamo trovato insieme la chiave che doveva avere il film. Per quanto riguarda l'ambientazione è stato fatto un lavoro certosino a monte, prima di ricerca di un posto che potesse fare al nostro caso. Non avendolo trovato, la scelta migliore è stata ricostruire il coprotagonista del film, perché in realtà anche il bagno è un protagonista del film, e lo abbiamo fatto negli studi di Cinecittà, e vederlo dalla carta materialmente fatto è stato veramente una sorpresa e è forse stata una delle cose più emozionanti della mia vita, diciamo, ecco. Entrare in un set finto che è stata la nostra casa poi per quasi 4 settimane, parlo del bagno, e è stato molto bello. Tutta la parte di messa in scena e di lavoro con gli attori è quello che, almeno dal mio punto di vista, è un po' il lavoro del regista, nel senso, in Italia c'è un po' questo errore, secondo me, questa brutta creanza, cioè che gli sceneggiatori fanno i registi e i registi fanno gli sceneggiatori. Dal mio punto di vista, come ti spiegavo a monte, il film è stato scritto da 2 bravi autori, di conseguenza il lavoro del regista in questo senso è proprio la messa in scena, quindi analizzare il copione, trovargli, diciamo, un proprio significato personale e da lì poi lavorare e andare avanti. La scelta di questa distribuzione online purtroppo è stata dovuta alla spiacevole situazione che abbiamo in questo momento, cioè il film sarebbe dovuto essere distribuito in sala prima del primo lockdown, poi ci hanno chiuso, poi doveva uscire in sala l'8 dicembre, era la data prestabilita, e l'ultimo decreto, perché era uscito un altro, ha richiuso un'altra volta le sale, e da quel momento in poi il film ha scelto di uscire online, che ti devo dire, non essendo il nostro un film mastodontico, quindi con nomi altisonanti, neanche io lo sono, è il mio primo film, è forse una scelta un po' più criteriata, perché permette al film di avere più visibilità, nel senso che lo puoi vedere in ogni momento in tutta Italia acquistando il biglietto online, cosa che se fosse uscito al cinema non sarebbe stato possibile, perché non avremmo avuto tutta questa visibilità. Nel bagno delle donne, online da giovedì 3 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Castaldi. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci. Volevo fare l'ultimo ringraziamento, se possibile, alla distribuzione che è Istituto Luce, la piattaforma Mio Cinema che ci sta ospitando, e a Rai Cinema che ha reso possibile tutto questo, e ai produttori che sono Gagliano Chiuso per Bella Film, Francesco Cimpanelli e Francesco Bruschettini di Calca. Con Mattia Mura, regista del documentario Voci da Contamina, online da pochi giorni. Mattia, ben trovato. Grazie Federico, ciao. Ci racconti di questo lavoro? Sono stato contattato da Chiara Migliorini, che è l'organizzatrice del festival, è una persona con cui ho collaborato già nel corso degli ultimi anni in più occasioni. Già 6 anni che in diverse circostanze collaboriamo insieme. Il mondo del teatro è sempre stato un mondo a cui sono vicino, perché ho studiato a Roma e lì ho iniziato già a avere alcuni contatti con tutta la realtà e l'ho sempre mantenuta nella mia pratica. E mi aveva contattato per raccontare un po' il festival Contamina, che è un festival che già esiste da diverse occasioni, è già oltre la sesta edizione, mi sembra di ricordare. La circostanza del Covid era una circostanza molto complicata, non sapevamo se sarebbe avvenuto o meno, e pochi mesi prima che questo festival iniziasse mi ha contattato dicendo: il festival ci sarà, riusciamo a farlo, forse anche meno, dice, proprio un mese prima probabilmente, e raccontiamo un po' questo festival. E quindi insieme abbiamo pensato che in realtà, piuttosto che raccontare cosa succedesse in quei giorni lì, potesse essere piuttosto un'occasione, visto che è stato un momento di incontro importante, uno dei pochi che abbiamo avuto quest'anno, per proprio avere un confronto e tastare il polso del mondo dello spettacolo, più o meno indipendente o anche fortemente indipendente, in merito a quella che è la situazione attuale. Quindi questo è un po' quello di cui parla il progetto, anche con un taglio un po' positivo, cioè nel senso l'idea è anche cercare di trovare le possibilità, le opportunità per compiere un percorso o per dare degli spunti a altri per compiere un percorso positivo, a differenza della situazione, insomma, che non è proprio delle più semplici. Che situazione hai trovato? Ci sono tanti dei problemi che abbiamo riscontrato, che stiamo riscontrando, che le persone, vari tipi di operatori, perché ho parlato con gli artisti di strada, con realtà che magari sono anche più all'interno di alcune istituzioni, c'è Claudio Collovale all'interno del documentario che dice la sua, lavora in Sicilia a Siracusa, insomma è anche più all'interno di tutta la fase più istituzionale, comunque insomma, quindi tante prospettive, tanti dei problemi sono quelli classici che già la nostra realtà ha, ovvero la mancanza di spazi, la mancanza di supporto, però il Covid chiaramente ha creato tante nuove difficoltà e Chiara lo racconta bene quando parla del fatto di essersi riconosciuta in una spina dorsale della realtà teatrale, che è quella proprio dell'operatore più indipendente che si trova a compiere molte cose, non semplicemente recitare o dirigere uno spettacolo, ma anche organizzare eventi e interagire con le istituzioni. E questa figura è la figura che è più invisibile, è la più fragile all'interno del comparto del mondo dello spettacolo. E lei dice proprio, ha una spina dorsale che il Covid ha rotto. Quindi c'è questo di grande problema. E l'altra faccia della questione è che fortunatamente tutto questo, cioè quando qualcosa ti manca, diventa anche più forte il desiderio di averlo, la necessità. E quindi forse la speranza è che tante persone possano essersi rese conto di quanto la cultura, lo spettacolo dal vivo siano importanti per noi. Quindi questo è un po' anche l'altra faccia. Magari questo, non solo il documentario, ma anche questo nostro tempo può aiutarci un po' a capire di più che certe cose non sono proprio da dare per scontato o hanno una valenza che tanti non si aspettavano. Oltre al canale YouTube del festival, avete pensato a una circuitazione anche per alimentare il dibattito sul difficile momento che sta attraversando il teatro? L'idea è stata proprio quella di fare un'operazione pubblica per diffondere il più possibile questi contenuti e lasciare che più persone possibili possano accedervi subito. Spesso, cioè, sul mondo del documentario i percorsi sono lunghi, ci sono prima tutto il circuito di festival, poi le proiezioni in sala, che poi adesso sono particolarmente complicate. In questo caso qui l'esigenza era molto immediata, molto forte, quindi l'intenzione era quella di dare uno strumento subito per le persone. Abbiamo attivato delle collaborazioni per cercare di diffondere questo contenuto il più possibile, sia con Come Eresia, che è una delle realtà che si sono create su internet e che vengono anche raccontate nel progetto, con Teatron 2.0, che è questa rivista online, questa realtà di produzione che ci sta supportando nella diffusione. Insomma, stiamo attivando questo genere di canali. Eventualmente ci può essere anche altre possibilità, però queste sono un po' quelle che stiamo adottando, anche perché è un tempo diverso da quello solito di fruizione ordinaria di questo genere di prodotti, e internet è stata subito una soluzione migliore, insomma. In questo senso ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Su YouTube lo si trova scrivendo Voci da Contamina documentario. Il canale è quello del festival, che si chiama Contamina Festival, quindi basta andare su YouTube, scrivere Voci da Contamina e lo si trova. Altrimenti si può seguire la pagina Facebook, che è Contamina Festival, e anche da lì è possibile reperire gratuitamente e facilmente questo documentario. Voci da Contamina, online sul canale web del Festival. Un saluto e un ringraziamento al regista Mattia Mura. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a voi e buon lavoro. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese. Ciao Paco. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Allora, questo mese abbiamo decisamente avuto tanti belle novità e begli arrivi su OpenDDB, sia sul fronte delle editorie indipendenti, che è un'edizione, se vuoi, più piccola rispetto al catalogo dei film, ma comunque non meno importante. Partiamo da questa, con le principali segnalazioni, di cui soprattutto due. Anzitutto sta andando avanti la produzione del collettivo Elementi Kairos, che è una realtà che anche a Roma conoscerete molto bene, perché si muove parecchio anche su Roma, e abbiamo allargato, diciamo, quello che è la loro pagina dedicata con due nuovi lavori, che sono appunto Brigata Maddalena e Sindrome di Peter Punk. Tenete presente che Elementi Kairos è una casa editrice che ha sempre molto privilegiato non solo la scelta di storie, se vogliamo anche da forte contenuto politico, quindi osava come nel primo caso, ma anche in passato con il zapatismo, con altri libri, eccetera, ma soprattutto fanno sempre degli esperimenti editoriali molto interessanti, dove spesso si miscela al fumetto la parte testuale piuttosto che il racconto, oppure una scelta più, diciamo, di materiali tipo di lavoro di ricerca e quant'altro. Questi ultimi due lavori, che sono stati targati 2020, giravano, diciamo, già negli spazi sociali da alcuni mesi, e adesso li abbiamo finalmente anche portati in catalogo per chiunque volesse richiederli in questo periodo di dicembre. Anche perché è un periodo dove, al di là di qualsiasi ragionamento su feste, regali di Natale e quant'altro, che quest'anno, insomma, è un'annata un po' particolare, senza entrare di nuovo nel tema, in realtà, in generale, sono tutte realtà di produzione indipendente, di editori indipendenti, che hanno assolutamente bisogno del sostegno delle persone per continuare a fare quello che fanno, oltre al fatto che fanno delle cose estremamente interessanti. Vi segnalo anche l'arrivo in catalogo di Maledizioni, che è una piccola officina editoriale principalmente di dal fumetto, nata a Brescia 9 anni fa, e abbiamo finalmente avuto il piacere di portare in catalogo tutta la sua produzione fumettistica, sono circa 15 titoli, che trovate nella sezione dedicata appunto al collettivo Maledizioni. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo, più classica di OpenDB, quindi quella del mondo del cinema e del documentario, abbiamo delle notizie decisamente importanti. La prima sicuramente è l'arrivo di Milky Way su On Demand. Abbiamo già avuto modo di parlare di Milky Way parecchie volte, ovviamente, ma anche perché è un film che abbiamo realizzato e prodotto noi per la regia di Luigi Dalip, ma è anche un film che sappiamo bene sulla nostra pelle cosa ha significato il dramma della figura del cinema. Questo film è uscito 15 giorni prima dello scoppio della pandemia in Italia, e quindi, come tanti altri lavori del cinema indipendente, ha subito un danno molto grosso. Adesso abbiamo ufficialmente lo streaming, diciamo, classico e stabile, cioè che DVD, che qualcuna iniziativa temporanea già messa in campo gli scorsi mesi, e questo per noi è uno strumento da un lato di sostegno all'opera che è stata economicamente molto danneggiata, ma anche ovviamente un volano per la diffusione di questi film che comunque abbiamo realizzato, abbiamo ritenuto così urgente, considerato che l'intervista racconta proprio della vicenda dei ragazzi migranti che cercano di svalicare tra l'Italia e la Francia passando per le Alpi, che è un altro territorio assieme al Mediterraneo, alla Balkan Route, dove molte persone passano e, a differenza di quegli altri due territori, se ne parla molto meno, nonostante qui ci siano dei grossi problemi e anche di incolumità delle persone, ovviamente. Un altro grandissimo titolo che abbiamo finalmente portato in catalogo e ci tenevamo molto è Il pianeta azzurro di Franco Piavoli, che non ha assolutamente bisogno di presentazioni né l'autore né il titolo. Il pianeta azzurro è il film di punta, è il film punto, se vogliamo, di Franco Piavoli, ed è un film che, nonostante sia stato realizzato ormai più di 30 anni fa, è dal punto di vista della sperimentazione anche visiva e cinematografica, è ancora, infine, ancora tantissimo anche oggi. Noi con Franco Piavoli avevamo iniziato un percorso già da un mese circa, con la finizione dei suoi cortometraggi, e finalmente abbiamo anche il piacere di essere l'unico distributore in Italia che cura on demand di quest'opera, che vi consiglio caldamente di andare a vedere. Abbiamo altre due segnalazioni che volevo indicarvi. Una è il documentario Soggetti Pericolosi, che è un documentario appena uscito, cui abbiamo il piacere di dare una mano nella distribuzione online, nella diffusione, che racconta tutto il tema molto urgente e scottante dal punto di vista politico della vicenda di alcune compagne e compagni italiani che stanno subendo oggi i processi attraverso la Procura di Torino per essere stati in Rojava a sostenere la lotta dei curdi. Tutta la vicenda di Eddie e di tutte le altre persone coinvolte ormai la conosciamo bene, perché appunto per fortuna c'è una forte sensibilizzazione sul tema. Questo documentario è uno strumento molto importante per raccontare in profondità cosa stia succedendo su questo discorso, che è un discorso che non è estremamente attuale e urgente, perché non è pensabile che delle persone che sono andate all'estero spinte da un'azione di solidarietà, tra l'altro appunto tecnicamente andando a combattere l'ISIS, che è sicuramente una cosa, una realtà di cui tutti abbiamo un'idea abbastanza chiara, poi si trovino in Italia a subire un processo per terrorismo, è una cosa che non ha né capo né coda. L'ultima segnalazione che vi faccio invece è un film dedicato alla memoria di Franco Cortini, per la regia di Lorenzo Pallini. È un film documentario sulla figura di Cortini, sostenuto anche dall'AMO di Roma, tra le varie realtà, che abbiamo seguito già da diversi mesi, che ha fatto una bellissima campagna di crowdfunding, che già per noi è un elemento molto importante per analizzare le opere indipendenti, e che finalmente entra in una fase distributiva, e abbiamo avuto il piacere di accogliere anche quest'opera in catalogo, e ce ne vamo molto, ed è arrivato il momento finalmente di portarla nelle case di tutti e tutti. Sappiamo bene che è un periodo storico complicato e l'unico modo, se non il principale, che abbiamo in questo momento per vedere i film a casa. Speriamo di potervi invitare molto presto, nonostante ci occupiamo di on demand e di streaming, di potervi invitare molto presto a tornare nei cinema e negli spazi sociali a vedere che i film che promuoviamo, perché anche quello è una parte importante del percorso di un film. Paco, un abbraccio e a presto. A presto a voi. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.